Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini. Buona Pasqua, perché questo è il pomeriggio di Pasqua, ed oggi, almeno con lo spirito, andiamo a passeggio per il bosco. Pare che piova in mezza Italia, ma noi andremo a spasso nell'oasi WWF di Vanzago, vicinissima a Milano, uno dei più grandi centri di recupero animali selvatici del nord Italia. L'ha visitato per noi nei giorni scorsi Irene Privitera, alla quale diamo il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Laura e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Irene ha avuto la fortuna di visitare l'oasi di Vanzago in una bella giornata di sole. E prima di tutto ti chiediamo, dov'è quest'oasi e come si raggiunge? Si arriva molto facilmente, siamo partiti dalla stazione di Porta Venezia al centro di Milano e siamo arrivati dopo circa mezz'ora in questa sorta di paradiso, lasciandoci proprio alle spalle il cemento della città. È un'oasi molto grande, sono 200 ettari ed è un'ex riserva di caccia. È molto interessante sapere che di solito il WWF gestisce i parchi e molto raramente ne ha anche la proprietà. Questo invece, quella dell'oasi di Vanzago, è proprio una proprietà del WWF e una delle più grandi gestite dal WWF. Tutto comincia dalla donazione di un cacciatore, la sua storia ce la racconta la guida Alessandro Taverna. Si chiamava Ulisse Cantoni, il quale, tornato dalla seconda guerra mondiale, ha rilevato delle industrie e ha cominciato a produrre acciaio svedese. Si è arricchito notevolmente grazie al commercio di questo materiale, a tal punto da riuscire a venire a acquistare una serie di terreni in questa zona della provincia di Milano. E quindi è andato avanti, una volta che ha avuto questi terreni, appunto, come dicevo, li ha cintati. Complessivamente tutto il terreno di proprietà, no, sono circa 200 ettari di terreno, quindi appunto lui parte l'ha cintato e parte invece è lasciata libera. In questa parte interna quindi l'ha fatta diventare la sua riserva di caccia personale. Ha introdotto animali come caprioli, adesso ne abbiamo circa una cinquantina in questa parte appunto cintata, e fagiani, varie specie di uccelli, ed è andato avanti quindi dal dopoguerra fino più o meno gli anni 80 a fare attività di caccia qua dentro. In particolare lui poi è morto nel 1977 e proprio prima di morire ha deciso di fare un lascito, una donazione a WWF, proprio con questa esplicita richiesta che da una riserva di caccia qual era venisse trasformata in una riserva naturale. Così è stato, e quindi è poi diventata una riserva a tutti gli effetti WWF ed è una delle più grosse riserve di proprietà di WWF. Chi ti ha accompagnato in questa visita? Oltre ad Alessandro, che abbiamo appena sentito, anche un'altra volontaria, Valentina Verani, che è una studentessa di veterinaria, poi Andrea Longo, che è il responsabile WWF dell'Oasi di Vanzago, Luigi Migliavacca, che è il coordinatore dei volontari. Poi con noi c'era anche una simpaticissima muflona di nome Maffi, non a caso, che ci ha accompagnato per tutto il tempo della visita. A parte ovviamente Maffi, hai detto più volte volontari, sono i volontari quindi la linfa un po' di questo centro WWF? Indubbiamente. Una squadra di 20-30 persone ci ha spiegato come lavorano e che cosa fanno Luigi Migliavacca, che è proprio il coordinatore dei volontari. Sono dai 18 agli 80 anni. Chiaramente in settimana si concentrano studenti e pensionati, poi nel sabato e nel weekend sono quelli, i lavoratori che hanno ovviamente il weekend libero e vengono qua a darci una mano. E cosa fanno esattamente? Fanno tutto, nel senso iniziano dalle pulizie, dalle cose più semplici, poi c'è un percorso formativo che li porta fino anche a fare alcune terapie, quelle basilari le possono fare anche loro. Il nostro scopo è renderli più autonomi possibile. Lavorano sugli animali e sulle strutture, che sono tantissime e hanno bisogno di sempre di manutenzione. Questo per quanto riguarda i volontari, poi più avanti diamo anche qualche indicazione a chi volesse diventare volontario all'Oasi di Vanzago. Veniamo proprio all'Oasi, da dove avete cominciato la visita? Abbiamo iniziato dal centro recupero animali selvatici, che è una sorta di clinica, come un pronto soccorso, diciamo, per gli animali selvatici, soprattutto volatili. Qui i volontari erano al lavoro per dare del cibo e curare un germano che è stato vittima del recente disastro ambientale dei fiumi Lambro e Po. Ricorderete, per gli ascoltatori, lo sversamento di oli combustibili nell'Ambro dalle cisterne di una raffineria nel Monzese. E proprio Valentina Verani ci ha spiegato come è stato curato questo germano e gli altri esemplari. Sì, vengono dall'Ambro e i primi giorni sono stati lavati due volte al giorno con questo prodotto speciale apposta per gli idrocarburi. E purtroppo però alcuni hanno anche ingerito questo materiale, quindi alcuni non ce l'hanno fatta, però gli altri invece sì, stanno meglio e verranno liberati presto. Il parco non si occupa soltanto di volatili e uccelli rapaci, anche se questa è la loro specialità, ma anche di altri animali. Alessandro ci racconta quali sono e chi li porta lì nel parco per essere curati. Siamo circa sui 1600 animali all'anno che ci vengono portati. Sia privati che poi dalle polizie provinciali, delle varie province, Milano, Varese, Como, dipende poi i vari anni in cui ci vengono date le convenzioni, appunto vengono fatte tra la provincia e poi il WWF, in particolare quest'oasi di Vanzago. Gli animali che vengono portati qui vengono quindi curati, qui abbiamo un veterinario che è responsabile appunto di questo centro di recupero, e poi vengono tendenzialmente liberati, dipende un po' poi qua all'interno del parco, se no poi viene decisa poi la destinazione di questi animali che vengono quindi recuperati. E poi in particolare abbiamo una specializzazione, chiamiamola così, in uccelli rapaci. Quindi il nostro veterinario in particolare è specializzato in uccelli rapaci, quindi da tutto il nord Italia, ma non solo, ci vengono portati spesso questi animali appunto un po' particolari che noi appunto curiamo, e poi anche quello decidiamo un po' se liberarli qua dentro, come alcune poiane, che gheppi, cose che riusciamo a liberare qua dentro. Se è un animale un pochino più grosso poi deciderà sempre il veterinario dove portarlo. Quali altri animali ci sono nel parco? Beh, ce ne sono tanti, dalle tartarughe che però non abbiamo visto perché a causa di questa primavera che tarda ad arrivare erano ancora in letargo, i caprioli che sono poi diciamo il capriolo è il re di questo parco perché ce ne sono una cinquantina all'incirca, anche quelli non siamo riusciti a vederli perché gli animali stanno liberi in questo parco, quindi bisogna essere fortunati per poterli incontrare, ma poi insomma volpi, tassi, conigli selvatici, soprattutto ci sono i rapaci che si trovano all'interno di grandi gabbie. Quindi non vi sono sfuggiti questi, no, come caprioli? Assolutamente, erano lì in mezzo agli alberi, a questo habitat veramente suggestivo, dentro queste grandi gabbie dove hanno la possibilità di volare, di stare in un certo senso anche liberi, e rimangono sotto controllo dei volontari. Vi ha raccontato qualcosa di più sulle aquile, sui rapaci, Alessandro Taverna. Qui siamo al terzo gabbione, sempre degli animali in recupero. Quella che vedete appunto è un'aquila reale. Quest'aquila reale ha una storia particolare perché è stata trovata appunto alla vigilia di Pasqua del 2003 nella zona dell'Appennino Parmense. È stata trovata perché purtroppo hanno cercato anche questa di catturarla, quindi le hanno sparato e purtroppo l'hanno colpita a un'ala. Quando è stata ritrovata, appunto, è stata portata come altri animali in questo centro di recupero e si è visto il da farsi. Quindi da farsi, purtroppo si è visto che quest'ala era irrecuperabile, quindi non poteva più essere utilizzata dall'animale. Quindi l'unica soluzione attuabile era quella di amputare l'arto, quindi l'ala. In questo caso è stato effettuato poi quello e bisognava però vedere se l'animale si abituava a questa condizione, perché tante volte, soprattutto i rapaci, piuttosto che rimanere in queste condizioni di handicap, preferiscono lasciarsi morire. Per cui per un po' magari si va avanti a forzarli, quindi proprio infilandogli pezzi di carne in gola per cercare di farli mangiare. Poi però se l'animale non va avanti a mangiare da solo, bisogna purtroppo o lasciarlo morire o sopprimerlo. In questo caso l'animale si è un po' abituato e quindi si è tenuto in una gabbia per tutti questi anni e è diventata un po' la mascotte del parco. 7 anni. Sì, 7 anni che è qua da noi, sì, ormai sono 7 anni. Prima era un'altra gabbia un po' più vecchiotta, adesso è stata da poco portata in questa gabbia migliore, diciamo. Però diciamo che si è abituata e anche diventata brava, proprio per il fatto che se qualche volta entriamo magari entra più che altro il veterinario, qualcuno che si sente un po' più coraggioso, diciamo, perché stare a tu per tu con un animale di queste dimensioni, con gli artigli che vedete che ha, sicuramente non è da tutti i giorni. Però sono sincero, ho provato a entrare anch'io e a parte la prima momento di timore, poi vedi che l'animale va a posizionarsi in un angolo e ti lascia lavorare tranquillamente, quindi si è abituato. L'animale selvatico proprio nasce con questa indole per cui deve avere paura dell'essere umano, dell'uomo. Quindi quando vede l'uomo, l'animale selvatico, anche se poi quella persona non gli farà mai niente, non sarà un cacciatore tutto, però deve sempre cercare di scappare. Il nostro cagnolino, quando lo prendiamo che da piccolo, quindi lo abituiamo alla presenza dell'uomo, tant'è che appunto gli si dà da mangiare, lo si accarezza, lo si tiene in casa, e questo fa sì che l'animale si abitui fretta all'uomo. Però la differenza sostanziale poi non è che uno ha, logicamente, uno è selvatico e l'altro domestico, è anche come lo si cresce, nel senso che guardate ad esempio questo muflone, questa mufloncina che abbiamo qua, logicamente è stata cresciuta un pochino a livello tipo animale domestico, quindi appunto accarezzandola, dandole un nome, cercando di volerle bene, come poi era carina anche da vedere, e quindi poi è diventato come se fosse un cagnolino. Ci sono alcuni animali nelle grandi gabbie di cui abbiamo sentito parlare adesso, ma sempre Alessandro ci dice che gli altri animali del parco, dell'oasi, sono liberi. Sono liberi di poter vivere la propria vita senza dover essere rinchiusi all'interno di una gabbia, no? Quindi questo è sicuramente una cosa ultra positiva, perché permette quindi agli animali di essere liberi, di scegliere quello che poter fare, quello che poter mangiare. Però logicamente magari il livello di visite, sono sincero, non sempre porta a vedere animali. Non è che io ti dico, ok, oggi se vieni con me, fai il giro con me, vedi 10 caprioli... C'è la volta che ne vediamo 10, la volta che non ne vediamo nessuno. Logicamente va un po' a fortuna, va un po' a periodi dell'anno, perché ad esempio d'inverno il fatto che tutte queste piante, vedi, che stanno cacciando adesso, sono tutte infestanti, che di per sé tante volte vanno un po' a fungere da barriera rispetto a quello che si può realmente vedere all'interno del parco. Quindi magari i caprioli tendono a nascondersi dietro queste piante e non sempre si riesce a vederli. D'inverno invece è tutto spoglio e quindi la vista è più ampia e si riesce a vedere molto di più. Alessandro, che abbiamo già sentito più volte nelle tue interviste, è un volontario. Oltre a accompagnare i turisti per l'oasi, che cosa fa? Durante la settimana ci ha raccontato che lavora in banca e poi nel weekend scappa qui al bosco di Vanzago, dove si occupa di alcune cose anche particolari come quella di cui adesso ci parla. In questi buchi vengono riempiti con un impasto che è formato da burro, margarina, arachidi spezzettate, noci spezzettate, sementi vari. Si va a formare questo impasto. Con questo impasto si vanno a ricoprire questi buchi e poi alcuni sono fatti anche meglio, diciamo, che hanno proprio delle bastoncini che fuoriescono dal tronchetto, che permettono agli animali, tipo cinciarelle, cincialleghe, di appoggiarsi su questi tronchetti, logicamente, e vanno a becchettare questo impasto. Logicamente d'inverno, così facendo, acquisiscono sostanze grasse e per la rigidità del clima invernale va molto bene. Ne abbiamo in giro un bel po', in giro per il parco, permette anche logicamente d'inverno di vedere tanti uccelli, anche un pochino meno facili da vedere, che si recano a mangiare logicamente presso queste mangiatoie. Come dicevamo prima, se ci venisse voglia di fare i volontari in un'oasi WWF in generale, come si fa? Ce lo spiega in questo caso Andrea Longo, che è il responsabile dell'oasi, e poi ancora una volta Alessandro, che ci dà qualche informazione in più. Chi vuole darci una mano, basta che ci chiami, facciamo un colloquio un po' per capire le reciproche aspettative e poi si può iniziare anche subito. Quello che chiediamo è una disponibilità che deve essere garantita, che sia mezz'ora o una settimana intera. Però su quella ci contiamo ed è giusto che venga rispettata. Primo insegnamento è quello che viene effettuato grazie all'affiancamento. Ti vengono logicamente viene affiancato a personale, a persone che sono qui da più tempo, quindi passi dal, che ne so, dal pulire la gabbia a logicamente a fare lavori un pochino più così tranquilli. Però arrivi in un secondo momento che ti capita di fare la forzata alla poiana, io ho provato a tenere in mano poiane, a andare a recuperare anche appunto l'aquila, cose del genere. Quindi lavori anche, fare la bendatura rigida a un animale che portano adesso, il veterinario in questo momento ad esempio non è presente, chi c'è di turno, logicamente più esperti, gli fanno la fasciatura rigida all'animale, poi interverrà il veterinario quando verrà. Quindi però logicamente tu all'inizio fai questo, poi però abbastanza regolarmente, se una volta all'anno se non due, vengono effettuati questi corsi e quindi più o meno chi è qua poi potrà imparare. Sono proprio corsi tenuti veramente bene e si impara veramente tanto. Per visitare l'oasi c'è un indirizzo internet, boscovwfdivanzago.it, tutto attaccato così come ve l'abbiamo detto. Ci sono due visite al giorno, alle 10.30 e alle 15. È aperta ovviamente l'oasi per le scuole, ma anche per i singoli, per le famiglie, per chiunque insomma la desiderasse visitare. Per la puntata di oggi di Respiro è tutto. Vi auguriamo nuovamente buona Pasqua. Ringraziamo anche Irene Previtera. Grazie a voi e buona Pasqua. Ci risentiamo la prossima settimana alla alla stessa ora. Per riascoltarci, come sempre, l'indirizzo è quello di radio24.it nella pagina dedicata al programma Respiro. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.